Si fa presto a dire che si esce di casa. In realtà, anche questa semplice azione quotidiana, semplice non lo è affatto, e richiede calcoli e controcalcoli, che risultano spesso sbagliati. Su tre volte che esco di casa, due almeno mi tocca rientrare quasi subito. Ho dimenticato qualcosa. I biglietti del tram o i documenti se ho cambiato la giacca, le monetine se ho cambiato i pantaloni, gli occhiali, la penna pilot nera con il click, se il conto complessivo delle tasche fra il prima e il dopo insomma non torna. A volte l'ombrello, perché mi accorgo che piove soltanto dopo aver svoltato l'angolo, e allora per lo più cambio anche le scarpe, e questo patologico andirivieni non tocca solo a me. Ad uno dei miei figli ho contato fino a 5 rientri prima che si potesse dire, ecco, dopo una quiete sufficientemente prolungata, che era davvero, davvero uscito di casa. Un nastro di Möbius è una striscia rettangolare che ha subito una torsione di mezzo giro, no? In modo che i due lati opposti coincidano. La sua invenzione, un oggetto matematico, diciamo così, per quanto la topologia appartenga alla matematica, la sua invenzione è ascritta ad un matematico tedesco, certo August Ferdinand Möbius. Era nato nel 1790 e morto nell'868. Che è riuscito a dargli il proprio nome a questa strisciolina, è riuscito a dargli il proprio nome nonostante l'invenzione sia stata fatta più o meno contemporaneamente anche da un altro, da un certo Johann Benedict Listing. Anzi, a dire proprio il vero, l'invenzione di quest'ultimo daterebbe al luglio del 1858, con relativa pubblicazione nel 61, mentre quella di Möbius daterebbe al settembre dello stesso 58, con pubblicazione però nel 65. Vabbè, ma così vanno le cose al mondo, e diciamo che anche dietro il nome di un nastrino può annidarsi magari un'ingiustizia crudelmente irrimediabile. Facciamo pausa. Come fa a notare Clifford Pickover, che ha il nastro di Möbius, ha recentemente dedicato un libro, questo sghiribizzo topologico è ormai diventata una metafora buona per tanti, tanti usi. Per esempio, laddove si voglia designare il cambiamento, l'inusuale, l'iterazione o il rinnovamento, beh, non è improbabile che faccia capolino il nastro di Möbius. È finito perfino sulla lattina di una birra, che addizionata con taurina, ginseng, caffeina e tiamina è consigliata per star svegli tutta la notte, mentre già nel 1970, in virtù del dinamismo che suggerisce, venne utilizzato da Gary Anderson per realizzare il simbolo del riciclaggio, ovvero della trasformazione del rifiuto in risorse utili, un simbolo che è tuttora in uso negli Stati Uniti d'America. Curiosamente, un'elaborazione del triangolo riconducibile ad alcune proprietà del nastro di Möbius, una striscia continua che si piega e si ripiega fino a formare tre triangoli che si intersecano, è anche diventata il logo dell'Associazione Italiana Sindrome di Möbius, il che potrebbe indurre ad attribuire a Möbius anche questa scoperta, ma ovviamente sarebbe un errore. La sindrome di Möbius la si deve invece ad un suo nipote, quel tal Paul Julius Möbius, che è morto nel 1907, di cui mi sono occupato più volte perché autore esattamente nel 1900 di un demenziale saggio intitolato All'inferiorità mentale della donna. Sembra che August Ferdinand Möbius, quello del nastro, usasse tecniche di memorizzazione per non scalfire la regolarità della propria esistenza, e fra queste, davvero notevole, è quella adottata per uscire di casa. Diceva fra sé e sé, tutti i giorni che Dio mandava in terra, prima di uscire di casa: 3S und gut, drittens und gut, 3S scritto, una frase che presumibilmente significava qualcosa, probabilmente, che so, per la terza volta, per tre volte bene, ma che soprattutto appunto era un acronimo potente, perché la prima S infatti stava per Schlüssel, le chiavi, la seconda per Schirm, l'ombrello, e la terza per Sacktuch, il fazzoletto, mentre la E, Hund, no, correlava il secondo trio salvifico costituito da, allora, Gut, la G di Gut, Geld, soldi, la U per Uhr, orologio, e la T per Taschenbuch, il notes. Era la soluzione giusta per andare dal dentro al fuori in modo impercettibile, il percorso meno traumatico per avventurarsi nella giungla della socialità, la realizzazione di una cauta continuità, come un mastro di Möbius, per l'appunto. La sindrome di Möbius è una malattia causata da difetti di formazione di alcuni nervi cranici. Comporta la paralisi facciale, l'impossibilità di un sorriso come di una smorfia, difficoltà nel movimento oculare, difficoltà nella suzione e nella deglutizione. August Ferdinand Möbius era persona piuttosto triste e metodica. Tranne pochi mesi a Gottinga, ha vissuto tutta la vita a Lipsia, abitando sempre lo stesso palazzo e insegnando con scarso successo sempre nella stessa università. I casi della vita hanno voluto che il suo nome e ciò che al suo nome è rimasto connesso servissero, a totale sua insaputa e senza che lui ne potesse alcunché, come simbolo di una sofferenza. Sembrerebbe di poter individuare nella vicenda una sorta di strana legge secondo la quale chi non si dimentica mai niente a casa non ha mai neppure il diritto ad un sorriso. Si sente anche in dovere di trovare un perché al fatto che Möbius e Listing siano giunti più o meno contemporaneamente al medesimo risultato. ricorda che fatti consimili non sono insoliti nella storia della scienza. Cita Leibniz e Newton a proposito dell'analisi infinitesimale, cita Darwin e Wallace a proposito dell'idea di selezione naturale, Bolyai e Lobachevsky a proposito della geometria iperbolica, cita molti altri casi, appellandosi alla teoria di Kammerer per spiegarne la coincidenza. Però questo Paul Kammerer, 1880, è nato e morto nel 26, in una breve e tragica esistenza di cui ho già avuto modo di parlare qualche anno fa, Kammerer raccolse una moltitudine di fatterelli resi memorabili in virtù di qualche coincidenza. Uno per esempio era quello relativo a suo cognato che il 4 novembre del 1910 a Vienna va a un concerto dove gli tocca la poltrona numero 9 e guarda caso controlla il biglietto dello scontrino del guardaroba e anche quello ha il numero 9. Vabbè, il giorno dopo vanno assieme a un altro concerto e questo suo cognato tocca la poltrona numero 21 e riguarda caso lo scontrino numero 21 del guardaroba. Cose così ci capitano tutti i giorni, semplicemente a volte non ce ne accorgiamo, quando ce ne accorgiamo rimaniamo a volte anche a bocca aperta, magari ne parliamo a chi ci sta vicino, ma difficilmente ci formuliamo sopra una teoria. Kammerer invece alle teorie ci teneva tantissimo, tanto che il nome di una teoria finisce con l'ammazzarsi, e arrivò ad immaginare un mondo a mosaico, una sorta di caleidoscopio cosmico, sono parole sue, che al posto di costanti rimescolamenti, riarrangiamenti, questo mondo si preoccupa di mettere insieme ciò che si somiglia, costituendo pertanto delle vere e proprie serie. Sono tesi che ritroviamo in Jung e che hanno sempre i loro appassionati, il che non toglie, che siano insensate, inutili e pericolose. Come insensato, inutile e pericoloso, perché misticheggiante, è il presupporre leggi misteriose e inafferrabili che governerebbero il mondo, assegnando al caso una logica che in quanto tale lo contraddirebbe di principio. La casualità ordinata in serie non è più casualità. Il caso e il determinato dipendono dai nostri atteggiamenti mentali verso gli eventi. Siamo liberi di adottarne uno o l'altro, ma ci contraddiremmo se nell'adottarne uno adottassimo senza neanche ammetterlo noi stessi anche l'altro. Le invenzioni accadono più o meno contemporaneamente, semplicemente perché nella trama incessante del sapere costituito, nel paradigma in uso, diciamo, si è venuta a creare una differenza da sanare. E più o meno contemporaneamente la cosa è stata individuata nella comunità scientifica. Il problema è nell'aria che respiriamo collettivamente e prima o poi qualcuno ne propone la soluzione, ma è più probabile che questa soluzione arrivi da parte di più persone che non da una sola, anche se poi alla fine vince, diciamo, sul proscenio del mondo ne vince una sola. Ma che a teatro lo scontrino del guardaroba abbia lo stesso numero di quello della poltrona è invece improbabile. Sì, che ce l'abbia uguale sia oggi che domani è ancora più improbabile. Ma d'altronde, che quel numero faccia parte del sistema di numerazione delle poltrone, come del sistema di numerazione degli appendini, così come di tutte le altre serie di oggetti cui applichiamo il sistema numerico decimale, è assodato di principio. Pertanto, improbabile quanto si vuole, può capitare. E quindi capita.